la settimana contro l'apartheid israeliana è un appuntamento annuale, ormai questo è il 18esimo anno che si svolge in molte città del mondo. Lo scorso anno si tenne in 200 località diverse in tutto il pianeta. Serve a noi per ricordare, intanto per misurare un po' le forze del movimento di boicottaggio nei confronti di Israele, e il movimento sta veramente crescendo dappertutto, compresa l'Italia. E poi vogliamo ricordare al mondo che Israele è uno stato di apartheid, anche se naturalmente diverso da quello che era l'apartheid storica del Sudafrica, ma molto simile come ideologia e come forme di segregazione. Quest'anno ovviamente non si potranno fare manifestazioni in presenza, salvo rare eccezioni, per cui si ricorre molto all'utilizzo dei mezzi social cosiddetti e anche a iniziative online. Quindi sia noi che nel mondo si realizzeranno alcune iniziative di questo tipo. In particolare in alcune piazze del mondo, so di preciso a Berlino, a Londra, a Francoforte e in Italia, a Torino, a Roma e probabilmente anche a Bologna, proietteremo in luoghi pubblici un video di informazione in cui viene letto un appello internazionale contro il razzismo. La nostra lotta per il popolo palestinese si unisce idealmente e anche materialmente con tutte quelle delle minoranze discriminate nel mondo, a partire dai neri in America, dalle donne in tutto il mondo e tante altre realtà. Ecco, per cui lo slogan di quest'anno è Uniti contro il razzismo. Il periodo, la settimana contro l'apartheid, va dal 14 marzo al 21 marzo. Il 21 marzo è la giornata che l'ONU dedica alla lotta alla discriminazione razziale, quindi non è casuale la scelta di questa data, e noi cerchiamo di unire le forze perché soprattutto in un periodo come questo, di questa pandemia che sta mietendo diritti e facendo vittime oltre che fisiche anche politiche e anche di intere rivendicazioni, credo che sia importante che le forze si uniscano. Sappiamo che le forme di segregazione praticate contro i palestinesi sono di vario tipo. Quali sono i principali temi su cui verterà la settimana di quest'anno? Sì, noi in particolare in Italia abbiamo prodotto un dossier che documenta, con dati inoppugnabili, molte delle violenze e delle prevaricazioni e le inosservanze del diritto internazionale che Israele pratica, e soprattutto la consistenza del commercio sia di sistemi d'arma sia di sistemi di cosiddetta securitizzazione, cioè di sicurezza e repressione. Israele ha questa caratteristica di essere al mondo il paese al vertice nella ricerca nel campo delle armi e dei sistemi d'arma e anche nella sicurezza, e ha il privilegio, fra virgolette, di poterlo provare su delle popolazioni reali, perché hanno questo banco di prova delle loro armi, che sono i palestinesi, in particolare Gaza, ma non solo. Tant'è vero che alcune delle industrie belliche israeliane lo mettono anche nei loro cataloghi come le loro armi siano state provate sul campo, e sul campo vuol dire sulla pelle delle famiglie palestinesi. Chi ci ascolta, come fa a scoprire tutto il programma, insomma a seguire la campagna? Le iniziative sono indicate sia sul sito bdsitalia.org, in particolare questa della presentazione del dossier sarà il 18 di marzo alle ore 17, e la diretta sarà trasmessa sulla pagina, sul profilo Facebook di BDS Italia, quindi questo è facilmente raggiungibile, e lì potete trovare anche le informazioni relative alle iniziative in Italia, in Europa e anche quello che sta un po' succedendo nel mondo, perché noi cerchiamo di essere collegati direttamente con la Palestina e direttamente con il resto del mondo.